Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, sono le 21 e 2 minuti primi, voi siete all'ascolto di Blu Radio Veneto dalle vostre frequenze preferite, non solo, anche attraverso lo streaming audio in internet siete collegati con noi. Buonasera anche ai nostri amici internettari. Io sono Flavio Bilato e dall'altra parte del vetro insieme a me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, innanzitutto vogliamo salutare in questa serata Giancarlo Frigieri, che doveva essere con noi direttamente da Sassuolo, non ce l'ha fatta a raggiungerci per motivi di neve, e chi non li ha ultimamente. La neve arriva dappertutto tranne nei posti comandati, come si direbbe, quindi siamo vicini comunque agli amici che stanno vivendo questi problemi con la neve. Ricordiamo che la data di Frigieri sarà comunicata nel breve, in maniera che tutti i fan di questo cantautore possano ascoltarlo in versione live. E in questa serata di martedì 7 febbraio siamo riusciti, comunque noi siamo fortunatissimi in questo caso, ad avere un ottimo contatto, un contatto con una band che ci viene a trovare direttamente da Padova, perlomeno nel due terzi della compagine, e quindi diamo il benvenuto e li ringraziamo per aver accettato il nostro invito, seppur in extremis. Salutiamo i Positiva. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao a tutti. Allora, i Positiva, che in molti conosceranno, ma ancora c'è qualche ascoltatore che manifesta la propria curiosità della serie. Ma chi sono i Positiva? Allora, innanzitutto salutiamo Alessandro Baccelle, che è voce e poi da disco è anche il double bass. Voce e contrabbasso, sì. Ecco qua, sì, il contrabbasso. Poi ancora Stefano Jester Barile, che è la batteria. Questa sera è venuto in forma davvero ridotta, quindi solo batteria e spazzole, tanto per pettinarlo, sì, un pochettino. Tamburo rullante e spazzole. Ecco, basta. Benissimo. E poi invece salutiamo il chitarrista. Il terzo elemento che si chiama Davide Fragapane, che voi lo chiamate anche Prince. Sì. Ecco qua. E quindi i Positiva sono tre persone davvero particolari che nascono nel 1996, no? Artisticamente, quindi... non siamo così giovani. Sì, artisticamente. Anche se a guardarci sembriamo dei ragazzini. Sicuramente, quindi, rispetto al sottoscritto, a Fly un po' meno, ma sicuramente al sottoscritto siete dei ragazzini. Siamo dei giovincelli. Sì. Noi sappiamo l'età, non la sveleremo mai, per saperne di più naturalmente si va in cerca anche su internet, esatto, da serie. Chissà quanti calcolo. Anni avranno i ragazzi dei Positiva. E quindi va bene, lo faremo insieme, magari poi verso la fine sveleremo anche questo. innanzitutto allora Alessandro, Positiva nel 1996, cosa significava questo, il nome di questo gruppo? In realtà è stato un nome scelto in funzione del genere che proponevamo al momento, ovvero un genere comunque innovativo, fresco e appunto positivo. Poi negli anni ha assunto connotati ancora più legati a quello che facciamo, perché facendo adesso rockabilly, che è la musica spensierata, allegra e positiva per eccellenza, ci sta ancora meglio, insomma. Bene, ma un marchio di fabbrica totale, insomma, assolutamente. E prima invece di cosa vi occupavate? Quindi sempre nell'ambiente pop rock? Eravamo pop rock, ma facevamo ovviamente solo materiale nostro, mentre adesso abbiamo introdotto anche delle cover. E facevamo un genere che noi definivamo space funk, quello era il genere dell'inizio, ovvero un mix di funky, ma anche di rock italiano. Una cosa molto particolare che ci ha dato molte soddisfazioni. Poi è andata a esaurirsi e abbiamo deciso di tornare alla radice. Siete in tre, il classico emblema del rock è il trio, perché basso, batteria, chitarra. Il 3 è il numero perfetto. Il 3 è il numero perfetto. Anche in antichità. Esattamente. Se citiamo i Cream, possiamo citare tutti quelli più importanti. Cream. No, ma anche più indietro. Ah, anche più nel indietro. Medioevo. Io parlo di Cream, sì, come io gruppo. Io parlavo rock. Del Medioevo. Ah, del Medioevo. Come gruppo rock, Cream era il massimo. Basso, batteria, chitarra. Basso, batteria e chitarra, come si fa? Come si crea il rockabilly con basso, batteria e chitarra? Beh, in realtà l'origine proprio del rockabilly era ancora più essenziale, esattamente. Senso che nasceva proprio dalla chitarra acustica e contrabbasso, in sostanza. Esattamente. Perché il contrabbasso, già avendo una forte funzione ritmica, dava già il movimento ritmico al brano, quindi in sostanza quello era già più che sufficiente, anche perché si parla di una musica poverissima degli inizi, quindi delle zone rurali soprattutto. E andando avanti, poi con la nascita della chitarra elettrica e dell'introduzione di questa, la batteria è diventata un'esigenza proprio perché altrimenti non si poteva più sentire la parte ritmica, no? Certo. E quindi di conseguenza è stata aggiunta come strumento successivamente, per poi mutarsi ulteriormente nel rock, andando con il basso elettrico, perché appunto era quella volta, a quel punto era il contrabbasso che non si sentiva più. Esattamente, proprio così. Bene, allora adesso noi stiamo parlando con i Positiva, i nostri ascoltatori sono pronti a carpire le prime note per identificare ancora di più quella che è la musica particolare dei Positiva, e quindi e possiamo dare l'avvio alla trasmissione, alla parte musicale, presentando anche quello che è il primo pezzo che poi commenteremo insieme. Mm-hmm. Come si intitola? È anche il titolo dell'album. Esatto, lo abbiamo voluto far ascoltare per primo proprio per questo motivo, perché è quello che ci identifica di più in questo momento. Si intitola The Big Pepperone ed è un brano nostro, originale, cantato in inglese, ed è quello che appunto dà il titolo al nostro primo disco, The Big Pepperone. Allora ce l'ascoltiamo. Blu Radio Sera. Radio Sera. Blu Radio Sera. No, non siete capitati in una radio americana, siete ancora in contatto con Blu Radio Veneto, ci siamo ascoltati questo primo pezzo dei Positiva, l'album che ci vengono a presentare, questo The Big Pepperone, ci siamo ascoltati proprio il primo pezzo, tanto per identificare la loro musica e per capire che siamo in piena epoca di rockabilly. Assolutamente. E quindi stiamo affrontando i primi anni 50, stiamo parlando del 1950, quando il rock and roll si incontrava con il blues, si incontrava con il country, un po' con tutti, faceva a baruffa, ma nello stesso tempo andava d'accordo, come testimonianza di questo genere musicale. Certo, e poi ha avuto una funzione anche fondamentale di unire un po' la musica bianca alla musica nera, è una cosa che non era mai successa prima, quindi Elvis, che è stato un po' il primo in assoluto a dar vita a questo genere, ha anche questo merito oltre a tanti altri. Cioè, ha aperto le porte a tutto. Assolutamente, anche un attimo un po' a sfrondare un po' il razzismo, sì, che in quel periodo era abbastanza. Esattamente. Certo, con tutte le verdure che c'erano in circolazione, mm-hmm, come mai The Big Pepperone, proprio riservato al peperone? Come questo. Vedi, nella sì. copertina c'è un peperone un po' strano che ho trovato nel mio orto e, sì, e sì. quello ha dato un po' l'idea iniziale per il concetto del disco. Certo, allora cerchiamo di identificarlo, è un peperone che ha delle forme femminili davvero spiccate e per vedere qualcosa di più riguardo anche le copertine del disco magari si può indicare un sito internet. Certo, www.positivaonline.it, quello è il nostro sito dove potranno vedere le nostre brutte facce nelle foto, la copertina del disco e soprattutto trovare tutte le prossime date. Certo, e anche dare un ulteriore assaggio di quella che è la vostra musica di, certo, questa sera, c'è la possibilità di video, sentire anche audio, quant'altro. Video, audio e tutto quello che i Positiva mettono a disposizione. È autoprodotto al 100%, vero, il disco? Sì, orgogliosamente. Orgogliosamente autoprodotto, una cosa molto positiva, quindi siete liberi di andare dove volete musicalmente parlando. Non avete pressione, non avete, come si dice, i paletti, i cosiddetti paletti. No, assolutamente sicuro. No. Questo è sicuro, ma soprattutto ci siamo tolti la soddisfazione di poterlo realizzare in una maniera più vicina possibile a come allo spirito, a come venivano realizzati al tempo, quindi una stanza con un'acustica miglior possibile e una ripresa quasi live praticamente. Sì, sì, sì. Stefano, come vi siete conosciuti come Positiva? Venivate dagli stessi gusti musicali o c'è stato l'incontro come rockabilly? È stata la fusione un po' di vari generi musicali? Ma rockabilly è venuto parecchi anni dopo. Noi ci conosciamo da ormai chissà quanti anni. Diciamo che i più vecchi della band siamo io ed Alessandro, che ci conoscevamo anche ben prima del 96. Si parla adesso di una ventina d'anni. Sì, non ti so dire esattamente quanti anni fa, però l'ambiente che bazzicavamo era quello dell'hard rock, dell'heavy metal, insomma il genere con cui si inizia, diciamo, a muovere i primi passi, a essere il gruppo, sì, a fare il gruppo praticamente, ragazzini, certo, insomma, sì, perché molte volte si affronta anni. Quel tipo di musica perché si ha tanta energia, tanta voglia, ma si conoscono poche note, sì, o pochi insiemi di note, potrebbe essere, ma anche perché ti piace la dinamica di quella musica che comunque è sempre forte, aggressiva, sì, e poi da giovani, insomma, si sa. Certo. Non che siamo vecchi noi, però. No, assolutamente. però poi ci si affina un pochettino. Si cresce, poi c'è per fortuna anche l'evoluzione. E quindi poi si va avanti con l'esperienza, anche lo studio della musica comunque comporta un miglioramento. È una ricetta che poi, durante l'arco di una carriera, se così possiamo chiamarla, o di un'esperienza musicale, ti fa cambiare anche generi che non si penserebbe mai. Puoi spaziare dall'hard rock, passare all'heavy metal, al pop, al reggae, cioè qualsiasi cosa, perché io penso che il musicista comunque deve avere proprio l'obbligo, secondo me, di avere una mentalità molto aperta e di ascoltare qualsiasi cosa, perché da ogni genere, da ogni situazione può venire qualche spunto, qualche idea, e anche magari conoscendo altri generi che magari prima uno non conosce, magari poi ci si affeziona. Per esempio io rockabilly, cioè non sono mai stato un cioè non lo conoscevo benissimo, insomma, è stato Alessandro che me l'ha fatto conoscere e quindi mi è piaciuto tantissimo e da questo punto di vista ero abbastanza, insomma. Quindi da prima mi vuoi dire si parla un po' di crossover, sì, un po', sì, si sì, viaggia sì. intorno ai vari devo tipi dirti, di musica, abbiamo sì. fatto di tutto. Ecco, benissimo. A parte generi. Guarda, a parte liscio e quello non fa parte del genere. Abbiamo fatto di tutto. Benissimo. Veramente, cioè dai Depeche Mode agli Smith, ai sì, Cure. Sì, sì. Ecco, poi posso sono anche fermare. Qualsiasi cosa. Sono anche artisti quelli che hai citato che poi avremo modo di ascoltare a live. A proposito di live, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa è una serata che vede protagonisti anche gli strumenti dei nostri artisti in studio, quindi abbiamo Alessandro Fornito di chitarra, Alessandro che normalmente che suona il basso, non è il tuo strumento, però vedo che lo prendi bene maneggiando. E poi abbiamo anche Stefano detto Jester, poi ci spiegherà anche il perché, alla parte della batteria con le spatole, quindi una timida minimale, batteria che minimale, una batteria minimale, chiamiamola così. Allora, un primo pezzo in programma che non è vostro. No, è un pezzo del re, visto che comunque abbiamo detto tutto arriva principalmente da Elvis per quello che riguarda il nostro genere. Facciamo il pezzo suo per antonomasia che è Blue Suede Shoes. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo dalle frequenze di Blue Radio Veneto assieme ai Positiva per il loro The Big Pepperone. Well, it's one for the money, two for the show. I treat you get ready, but no good go. Why don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do the day, only hope for my blue suede shoes. Well, you can knock me down, steam my car, beat my liquor for my love through jam. Doing the thing that you wanna do, but I only have my shoes. Why don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do the day, only hope for my blue suede shoes. Well, you can knock me down, slap in my face, say my name all over the place, doing the thing that you wanna do, but I only have it as shoes. Why don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do the day, only have my blue suede shoes. Blue suede shoes, blue suede shoes, yeah. Blue suede shoes, blue suede shoes. Doing the thing, here for my blue suede shoes. Blue suede shoes, yeah. Blue suede shoes, yeah. Blue suede shoes, got it. Blue suede shoes. Doing a thing, love my blue suede shoes. Blue Radio Veneto. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. E questo è Blue Suede Shoes, una canzone di Elvis Presley cantata da lui ma scritta da Carl Perkins ancora nel 1955, però diciamo è più conosciuta la versione di Elvis Presley, certo. Che naturalmente io pensavo fosse di Alessandro. Ah, vero? Vabbè, sai, sì, perché lo fa effettivamente con un grande trasporto che veramente sembra sua. In si effetti, vede che mi piacciucchiano. Sì, si vede che ti piacciono queste canzoni. Ma sai, questo è il fatto, sì, che appunto di questa cosa di cui ti sei accorto, che in realtà il pezzo non era suo, era una felice e consuetudine che succedeva in quel periodo, ovvero tantissimi brani saliti alla storia, poi per degli autori che noi pensiamo fossero i reali autori, in realtà andando a cercare bene si vede bene che non, quasi mai sono veramente non mi viene più la parola, sì, non gli autori, come abbiamo detto, esattamente, del pezzo, cioè, originale. Anche se Carl Perkins era un musicista abbastanza famoso, abbastanza noto, certo, negli Stati Uniti, però Elvis era un'altra cosa, certo. Elvis con questo pezzo ha aperto un sacco di porte, ha cominciato a smuovere la gente. Certo. Ricordiamo che questo pezzo è stato fatto all'inizio di carriera dai Rolling, è stato fatto dai Beatles, è stato fatto da un sacco di band famose, perché tutti hanno cominciato con Elvis. Sì. Elvis è la base di tutto, c'è poco da fare. Infatti, addirittura il primo pezzo in assoluto, che è la celeberrima That's Alright Mama. Esattamente. in realtà era un brano di Arthur Crudup, che era un famosissimo bluesman abbastanza misconosciuto però all'epoca, e lui, velocizzandola in sostanza, ha creato in questo modo il rockabilly, ma più che altro il rock and roll, quello che poi è diventato rock and roll. Quindi è stata un'intuizione che lui ha avuto a livello di registrazione, a livello di studio, da Sam Phillips. E tu hai detto una cosa giusta, Alessandro. Dobbiamo dire che la base di tutta questa musica è il blues. Il blues è il blues che ha portato la fonte, poi chiaramente la velocizzazione del blues ha estrapolato con il country, che col country, che una mistura di cose, come giustamente ha parlato prima Flavio, questa commistione di genere ha portato il rockabilly. Benissimo, allora The Big Pepperone è formato, che è uscito da quanto? Intanto ricordiamolo. È uscito da poco, da dicembre. Ah, quindi, bene, quindi recentissimo, siamo tra i primi a presentarlo. Allora. Assolutamente. Benissimo, abbiamo questo grande onore. Allora, The Big Pepperone è formato da 14 tracce, con ciascun gruppo formato da una storia diversa rispetto al gruppo dell'altra. Quindi partiamo da un rockabilly formato Italia rockabilly, sì. Qual è il vostro, per passare anche ad altre strutture del rockabilly, presentando anche altri artisti, esatto. E anche artisti che non sono appartenenti al rockabilly stesso. Come è formata la cosa? È un'idea originale che abbiamo avuto fin dal primo momento, cioè riprendere una musica comunque, anche se non è un bel termine, però vecchia in realtà, e in qualche modo dare il nostro piccolo contributo per cercare di rinfrescarla un po' e di renderla fruibile anche ai più giovani, quindi magari riproponendo dei brani anche degli anni 80 o magari anche più recenti, si riesce un po' a far apprezzare questa sonorità, però mediandola con dei brani comunque che sono attuali. E che difficoltà avete avuto a mediare un pezzo, non so, citiamo i Depeche Mode, in versione pseudo rockabilly? Ma ci è venuta abbastanza spontanea in realtà, perché così noi abbiamo provato un po' di pezzi, un po' di cover che ci piacevano, appunto tra le quali Personal Jesus, che già suoniamo con un altro gruppo, certo, un altro progetto vostro, esatto. E no ci è venuta veramente naturale. Ovviamente, secondo me, se posso aggiungere a quello che ha detto Alessandro, è che il disco comunque ha anche una sonorità più moderna, ovviamente, rispetto ai dischi, certo, degli anni, cioè ovvio che discorsi, anche perché è stata registrata, suonata comunque anche con strumenti diversi, certo, e certo, con una tecnologia diversa da come invece. Io posso neanche chiamarla di cover, possiamo chiamare una vostra riproposizione, sì, ma è una cover, sì. Avete ripreso un pezzo e l'avete trasformato, esatto, a vostro piacimento, non è una cover, è una costruzione, reinterpretato, esattamente. Benissimo, allora con i Positiva stiamo assaggiando il loro rockabilly, adesso ci concediamo una piccola pausa musicale, sono dei brani che durano poco ma sono ben corposi e ben ritmati, e questa volta ci ascoltiamo un altro pezzo, si intitola Trying to Get to You, e poi torniamo qui in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. I've been driving over mountains, even through the valley too. I've been traveling every day, I've been running all the way, maybe trying to get you. And the seas are made louder when you say you love me true. I've been traveling every day, I've been running all the way, maybe trying to get you. Traveling in the day, I can run it all the way, maybe trying to get you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E chissà perché alla fine di ogni canzone tipo rockabilly, rock and roll, viene sempre a dire oh yeah, non so come mai. E all'inizio well. Eccola, bene. Quindi siamo con i Positiva in questa serata di martedì 7 febbraio del 2012 all'interno della programmazione musicale di Blu Radio Veneto. Si chiama Blu Radio Sera. Ancora una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, di Maurizio Calzavara, e salutiamo ancora una volta i Positiva, che sono questa band di rockabilly. Quindi ancora una buona serata ad Alessandro, che è voce, double bass da disco, però in questa serata si è portato la sua bella chitarra, e poi ancora Stefano Jester Borile alla batteria. Allora, aspetta, Stefano, devi dirmi una cosa, perché Jester? Perché non te l'avrà mai chiesto nessuno, no. Te lo chiedo io. Te lo chiedono tutti, bisogna sì. Tornare indietro agli albori forse, sì, bene, della mia storia musicale, sì. Quando appunto ascoltavo l'hard rock, l'heavy metal, insomma rock duro, e c'era questo gruppo che di Torino, mi pare, si chiamavano Jester Beast. Sì, è vero, c'erano. Un gruppo, facevano, io non amo l'hard rock, l'heavy metal, però io me lo ricordo questo pezzo. Sì, tra l'altro mi pare ci fosse anche in mezzo il bassista, che poi era diventato bassista di Marlene Kuhn. Sì, mi pare di sì, ecco, pare. Quello è il collegamento, si deve essere così. Allora, ha fatto un discreto successo all'epoca, parlo di, non lo so, di 20 anni fa, penso. Ed era uscito questo disco, mi era piaciuto tantissimo, avevo preso il disco, la maglietta, ed ero siccome praticamente le magliette al tempo si cambiavano poco, ecco, quello allora. Ero abitudinario. Ne avevamo circa 2 o 3 a testa, erano sempre quelle. Sì, ecco. No, la indossavo sempre, e praticamente in compagnia mi hanno dato questo soprannome, anche perché, devo dire la verità, ero l'unico ad ascoltare questo gruppo. Sì. Tra altre cose, leggendo su internet, perché non è solamente di notizie proprie che vive l'uomo, si vede anche su internet, e Jester Beast, appunto confermato, è un gruppo torinese che ha fatto uscire un disco straordinario della capacità di 27 minuti, intitolato Poetical Freak Scream. Esatto, esattamente quello. È fantastico. Anzi, poi dopo vado a casa e me lo ascolto. Ecco, vedi, ce l'hai ancora. Abbiamo sempre qualche validissima idea ai nostri ascoltatori, per non ascoltare le solite canzoni, di sintonizzarsi con noi all'interno delle programmazioni serali live di Blu Radio Veneto, perché oltre alla musica degli artisti di turno si scoprono un anche sacco di altre cose. Artisti di turno. Certo, sì. Si ascoltano anche questi, e magari si possono trovare cose interessanti. Assolutamente interessanti. Hai parlato della immediatezza di 27 minuti. A proposito, il rockabilly e il punk si assomigliano per l'immediatezza. Il punk dura 2 minuti, 3 minuti scarsi, e rockabilly è la stessa cosa. Giustamente, infatti, Alessandro parlava. La funzione che avevano era esattamente la stessa. Esattamente. No? La funzione di smuovere, di dare una scossa. Di rivoluzione, e quindi rappresentano un po' lo stesso spirito in 2 epoche diverse. È vero, gli anni 50 e gli anni 70, 70, 80. Quindi non a caso la seconda ondata di rockabilly, che è quella che poi è venuta fuori nella fine anni 70, primi anni 80, con gli Stray Cats, con i Meteors, con quelle band lì, e da cui è nato poi lo psychobilly, nasce in realtà in un ambito prettamente punk. Infatti gli Stray Cats erano, seppur pur proponendo una musica anni 50, erano inseriti del tutto in un ambiente completamente punk, e specialmente inglese, pur essendo americani. In America loro sono arrivati dopo. Sì, vero. Successo è partito dall'Inghilterra. Di New York, ma sono riusciti ad avere un loro circuito a sfondare solo in Inghilterra. È vero, vero. Questi inglesi, questi inglesi. Ci hanno fatto conoscere praticamente quasi tutti i generi. Assolutamente. Anzi, sì. Forse tutti i generi. Sì, per la maggior parte. Allora, moderna, diciamo ai nostri ascoltatori che noi non siamo solamente nelle frequenze classiche in FM, quindi sulla radio tradizionale, ma siamo presenti anche in internet, quindi andando all'interno del nostro sito bluradioveneto.it e cliccando all'interno della notizia riservata e positiva potrete sentire la diretta audio anche lì, quindi un valido momento anche per andare oltre e avere più notizie riguardo a quelle che sono le capacità produttive musicali di questi positiva, tra altre cose anche su Facebook, dove inseriremo poi le nostre belle foto della serata oltre che il nostro audio che stiamo registrando in questo momento. C'è anche la possibilità di commentare la serata tramite Facebook e per l'occasione salutiamo anche già due Patrizia che hanno commenti assolutamente positivi nei vostri confronti e diceva: complimenti e viva grandi, positiva, Blu Radio di più. Ciao Davide, poi c'è favoloso, qualcuno favoloso che scrive, poi grazie ancora un'altra Patrizia che dice positiva con due cuoricini e ancora viva e positiva, insomma. E queste sono le vere soddisfazioni della vita, certo. Sì. Per sì, sì. Andare su Facebook, che poi si comincia a parlare anche di questo Vulunia adesso ultimamente, questo nuovo sito internet che è a metà strada tra Facebook, tra Google, è un motore di ricerca che condivide le emozioni con altri che girano in rete col medesimo tema. Non avremo più scampo, insomma. Ecco qua, assolutamente sì, l'hanno proprio battezzato qui a Padova, penso sia un prodotto nostrano, se non proprio nostrano, come positiva italiano, esatto, quindi positiva. Positivo anche questo quindi assolutamente magari all'interno di Vulunia, che sarà presente tra 15 giorni circa nel mercato libero, si potrà ricercare la notizia riservata ai positiva e trovare tanta altra gente che sta cercando la stessa informazione. Buona sapersi. Maurizio, suoniamo ragazzi. Suoniamo? Sì, certamente. Io vi farò ascoltare un altro pezzo di Elvis, questa volta è una cosa un po' particolare perché rende ancora più chiaro il legame che c'era tra il rockabilly e il country. E il country. Questa volta Elvis ha fatto tanti tanti pezzi country, eh. Questo è un pezzo che si chiama Good Luck Charm, è il portafortuna tradotto in lingua nostrana. Va bene. E fa all'incirca così. Ha ha ha, ha ha ha, oh yeah, ha ha ha, ha ha ha, and tonight. Don't want a pearl in a clover, don't want a hair's to show. Won't you kiss, cause it just gave me a sweet good luck charm like it. Come on and be my little good luck charm, my oh sweet delight. I'm on a good luck charm, hanging on my arms and your hand, and your home and your night. Don't want a silver dollar, baby, put on a string. Come on and be my little good luck charm, my oh sweet delight. I'm on a good luck charm, hanging on my arms and your help, and your hope, and your night. Ah, ah, ah, oh yeah, ah, ah. And tonight I found a lucky penny, crossing across the bay. Love is world and a golden oak, no wonder that I say. Come on and be my leader, you love charm, my own sweet delight. I'm on a good luck charm, hanging on my arms, and you hug, and you hold, and tonight. Ah, ah, ah, oh yeah, ah, ah, and tonight. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Good night everybody, come direbbero dalle radio americane. Siete ancora su Blu Radio Veneto, non avete cambiato frequenza accidentalmente, state ascoltando del sano rockabilly, del sano rock and roll. Loro sono i Positiva, sono venuti a trovarci per proporre la loro musica rockabilly con questo loro ultimo lavoro, si intitola The Big Pepperone, e con qualche rilancio delle bellissime canzoni di Elvis Presley, in questo caso The Good Luck Charm, che sarebbe come l'amuleto dell'amore, si può dire così. Sì, sì, esatto. Allora, come mai tra le mille canzoni di Elvis Presley c'è anche questa nel vostro repertorio? Ma questa in realtà, appunto, proprio perché rappresenta una delle tante fusioni di generi rappresentate dal rockabilly, no? Qui c'è il molto country, in altre invece è più prevalente la radice blues, mentre in alcune addirittura c'è proprio l'Hill Billy, che è una forma di country ancora più, tra virgolette, radicale. Che esce ogni tanto dalle varie interpretazioni di Elvis. Poi ci sarebbe molto di più, ci sarebbe del gospel, ci sarebbe dello spiritual, ci sarebbe veramente da sbizzarrirsi, perché lui in 20 anni di carriera, perché alla fine ha avuto solo quel tempo, è un miliardo di dischi quasi. Esatto, ma oltre a quello ha anche esplorato tantissimi generi. Certo. Qual è il vostro punto di preferenza di Elvis Presley? L'intera carriera oppure qualche fase in particolare? Più bizzarra o più sensuale, come si può dire? A me piace tutto, però personalmente preferisco il primo periodo, perché è quello che rappresenta, a parte il rockabilly nella sua essenza, in quanto l'ha proprio iniziato lui stesso, come genere, rappresenta anche un po' l'innovazione, la rivoluzione, tanti e soprattutto lo spirito degli anni 50, certo, che è comunque una cosa molto, molto bella. Invece a Stefano, qual è il periodo di Elvis più... secondo te più bello, cioè quello che senti di più dentro? Ma diciamo che io mi sono avvicinato a questo genere, quindi anche a Elvis, non da tantissimo tempo, quindi lo sto scoprendo adesso e devo dire che tutto quello che sto ascoltando di Elvis mi sta piacendo parecchio, quindi ma è indifferente. Assolutamente, sì, quindi sì, si parte dall'A alla Z, dal primo periodo, quando era anche forse un po' più matto, a quando era più pacato sul palcoscenico verso la fine. Io ricordo un pezzo famoso di Elvis, si chiama In the Ghetto, che buon Michele, un cantante italiano, lo rifaceva in versione, non dico a rockabilly, ma quella vociona che aveva, voleva stemperare certe cose. Questa me la voglio cercare, In the Ghetto. Nel The Ghetto, fatto chiaramente, ma in inglese o in italiano? È stato fatto chiaramente da Elvis, in The Ghetto in inglese, poi Michele era tradotto in italiano. Ah, l'hai fatto in italiano? Ma ha fatto bene, non era fatto male. Michele come Bobby Solo, come Little Tony, tutti avevano tutti Elvis là davanti, continuamente Elvis là davanti. Michele era forse il più classico dei tre che hai citato adesso. Vestiva anche alla Elvis al 100%, anche Little Tony all'inizio di carriera vestiva alla Elvis. E non poco. Però Michele aveva quella predisposizione anche dal punto di vista della fisicità, era abbastanza alto, ben messo, aveva quel tocco molto alla Elvis. Abbiamo parlato di vestiti alla Elvis, abbiamo detto che Little Tony nei vecchi tempi vestiva, adesso un po' meno, però c'è sempre suo fratello dietro che suona la chitarra, che è un grande chitarrista che è sempre vestito molto, molto rock and roll lui invece, no? E Alessandro, come si veste, o chiaramente te come ti vesti quando suonate dal vivo? Perché è importante anche la vestizione, uno che fa rockabilly. Sì, l'importante è non essere modabilly, come dice un nostro carissimo amico. Mi vesto, cioè non modo, diciamo che per la batteria bisogna vestirsi comodi, no? Perché poi c'è bisogno di muoversi in questo pigiama, caso. Sì, in pigiama. È un classico abbigliamento largo. Cioè, il classico ciuffo, che quello di solito non manca mai, anche se stasera io almeno l'ho un attimo domato con un cappellino di vecchio stile. Sì. E poi ci sono le classiche creeper, che sono delle scarpe un po' caratteristiche, con la suola molto alta, che si usavano proprio negli anni 50, sono state riprese poi negli anni 70 e ancora adesso si possono trovare sbattendosi un po'. E poi c'è un po' un'altra cosa carina, che è anche in questo caso la possibilità di attingere un po' all'abbigliamento biker, più che magari alle camicie da bowling anni 50 o da lavoro classiche americane con le stampe sulla schiena, quindi l'immaginario è un po' quello, insomma. Certo, quasi. Diciamo che noi abbiamo fatto adesso questa domanda, però sia nel disco sia nel vostro sito internet c'è un po' anche il modello di presentazione al pubblico di Positiva, quindi certo. con questo gilettino che magari potrebbe essere anche un po' fosforescente per l'occasione. Invece il vostro amico, che salutiamo, che magari ci sta ascoltando, Davide, ha una vestizione completamente rockabilly in versione da chitarrista, perché siete tre frontman, non ce n'è solo uno che spicca. Assolutamente, anche questa è una cosa bella da sottolineare, no? Perché per esempio non c'è la classica disposizione sul palco che hanno le classiche rock band, quindi il batterista alle spalle e la formazione davanti. Essendo poi solo in tre, noi abbiamo la possibilità, e ci teniamo particolarmente, ad essere sempre tutti e tre frontali nella disposizione sul palco, il che dà proprio una comunicazione completamente diversa nei confronti del pubblico, e questa è una cosa a cui noi teniamo particolarmente. E quindi, quali sono i palchi che preferite? Quelli piccoli con la gente addosso o quelli un po' più, come dire... Quelli piccoli sicuramente ti danno delle emozioni che non sono paragonabili a nient'altro, soprattutto in certi locali si creano proprio delle atmosfere che sono magiche. Però devo dire che è un genere che aiuta proprio a far festa, quindi anche nelle situazioni con i palchi più grandi non abbiamo mai avuto problemi a coinvolgere la gente. Sarebbe stata anche una delle prossime domande queste, perché nelle vostre note di copertina c'è scritto Positiva Science 1996, Old Italian Band, poi ancora Quality Rockabilly Rock and Roll Party Band, e quindi a identificare proprio che la vostra non è una musica da teatro, ma è proprio una musica da festa. Esatto, quindi... quelle sono poche parole che ci identificano. E la festa non si fa da seduti, certo, è vero? Certamente no. Vabbè, allora parliamo ancora di musica, diamo un spazio ancora al vostro disco, quindi riparliamo di The Big Peperone, presentando anche un vostro pezzo dal titolo davvero curioso, poi torneremo a commentarlo. Adesso diciamo solamente il titolo, un attimo solo, che forse ecco qua, è Il Gatto Stracco, no? Pensavo di pronunciare, questo merita poi una spiegazione, ma la faremo dopo. Benissimo, allora ci ascoltiamo Il Gatto Stracco. Blu Radio Sera. We'll be right back. ditemi se un gatto de classe. Radio Sera. Davvero fantastica. Grazie, grazie. Da seguire dall'inizio alla fine, anzi riascoltarlo perché ci sono perse alcune battute. Perché è una storiella, no? È una storiella. È il gatto ostraco. Allora, cerchiamo di capire. Rockabilly è stato portato al successo, oltre che da Elvis Presley, in una maniera molto più soffice, da chi invece faceva... Fine anni 70 e primi anni 80 c'è stato il cosiddetto revival, ovvero la seconda ondata. Sono stati proprio questi revivalisti del genere che l'hanno ripreso, rimaneggiato ovviamente con nuovi suoni, e soprattutto hanno dato nuova linfa, perché non solo hanno rifatto i classici, ma hanno aggiunto delle vere perle, come a livello di brani, di composizione, al repertorio di questo genere. E stiamo parlando in questo caso di un gruppo, tra tutti, sempre formato da tre persone, esatto, gli Stray Cats, che arrivavano direttamente, anche loro statunitensi, e che hanno fatto qualcosa di loro, ma anche prendevano molto dal passato, stravolgendolo, certo, perché era la loro, forse nell'ambito del rock and roll, gli Stray Cats potevano essere considerati anche un po' panchettari, no? Da un punto di vista. Sicuramente. Diciamo che la loro hit più famosa, che rimane ancora nella storia, era Stray Cat Strut, che è proprio il gatto ostraco, rivisto alla nostra maniera, insomma. Io ci tenevo particolarmente a fare un pezzo in dialetto veneto, perché prima di tutto noi siamo veneti, siamo padovani, ed è comunque una forma anche d'amore nei confronti della nostra terra e della nostra identità. Perciò l'idea dell'assonanza del nome è stata quella che ha dato un po' lo spunto alla cosa. Stray Cat Strut, il gatto stracco, così, certo, suonava già fatta, e infatti è stato relativamente facile inventare questa storia sulla falsa riga del testo originale, praticamente. Musicalmente abbiamo notato, mentre il pezzo andava, cari ascoltatori, parlavamo con Alessandro e Stefano, nel trio non c'è la tastiera, però in questo pezzo la tastiera non è, come se ci fosse praticamente. Gli incasti dei suoni delle chitarre, il suono delle chitarre porta a che fosse ci sia una tastiera vera e propria, mm-hmm, anche se non c'è. Mm-hmm. E questo è importante, è fondamentale. Cosa dite? È importante e fondamentale, perché appunto vuol dire che ci siamo riusciti. Esattamente, vuol dire che avete fatto gli incastri giusti. Sì, fondamentalmente è una questione appunto di scelta delle parti e di incastro delle armonie dei tre strumenti, in questo caso. Quante difficoltà avete avuto per fare questa quadratura del cerchio? Non è stato chiaramente a primo acchito, sì, però non tutto a primo acchito. Ma devo dire che secondo me, ti giuro, è proprio venuto naturalmente questa. È stata anche una sorpresa da parte nostra, perché all'inizio del progetto avevamo intenzione sì di fare un disco, di provare a registrare dei pezzi nostri, dei pezzi rifatti, certo, in chiave rockabilly. Però era un po' tipo una, come si può dire, una prova. Ah, una prova. Abbiamo detto, ok, a questo punto abbiamo un tot di pezzi che ci piacciono, che ci riescono bene, proviamo a metterli, a registrarli. E ci siamo chiusi in casa, in salotto, e abbiamo raccolto microfoni da amici, la scheda audio, il computer, eccetera, eccetera. E anche tramite la nostra esperienza di anni comunque di studio e di registrazione e di live, siamo riusciti comunque a creare secondo me un buon prodotto, sì, anche certo. Sentendolo adesso in radio, in cuffia, devo dire che suona veramente bene. E, è stata proprio anche una sorpresa da parte nostra, perché abbiamo detto alla fine, però, bello, bellissimo lavoro, nel senso che è venuto fuori veramente bene. Salutiamo ancora i nostri amici di Facebook, abbiamo anche Lara che scrive: fantastici ragazzi, è fighissimo ascoltarvi anche alla radio, vi amo con tante O. Ciao Lara, e un bel sorriso. Ricambiamo. E poi ancora c'è una sorpresa per voi. Ahia. Dice: ciao positiva, sono il Prince. Attenzione. Salutatemi e dedicatemi Misir Lu, penso di averla. Ecco qua. Okay. Grazie. E quindi salutiamo anche Davide Fragapane, che è il terzo elemento del gruppo che ci ascolta a distanza. Molto bene. Bene, volevo aggiungere una cosa, prego. Sul discorso del testo in Veneto, perché c'è una sorpresa che in realtà non abbiamo mai detto a nessuno, ma visto che siamo qua volevamo approfittare della situazione. Fai pure, il microfono aperto. Ovvero appunto, sì, è apparsa qualche notizia sporadica sulla nostra pagina Facebook, su Reverb Nation. Noi in questi giorni stiamo lavorando a una nuova registrazione, però non abbiamo mai detto di cosa si tratta. E in sostanza vogliamo un attimo approfondire questo angolo che abbiamo aperto col Gatto Stracco, quindi con la parte in dialetto veneto legata al rockabilly, per legarci ancora di più a quello che è appunto il nostro territorio, la nostra storia locale. Le radici. Certo. Sicuramente il calcio rappresenta una parte molto importante. Non per me, che non sono tifoso, ma per me sì. Sì. Per Stefano e Davide poi. E per la storia della città comunque, certo. Lo è. Il Calcio Padova è una squadra sicuramente gloriosa, certo. che ha avuto modo di dare grandi soddisfazioni ai suoi tifosi. E noi abbiamo pensato di riprendere due inni storici, in sostanza, sì. di questa squadra, che sono Forza Padova, che era un pezzo in dialetto veneto appunto, che risale agli anni 20 se non sbaglio, sì, forse un po' di più, e in più anche il Ma quando torna a Padova, sì. Che la stiamo appunto finendo di registrare in questi giorni, e a breve la faremo anche ai nostri concerti, quindi insomma, per chi fosse curioso di sapere di cosa si trattava questa notizia che leggeva nel web, si parla appunto di questi due brani. Ma riusciamo a avere un'anticipazione così proprio? Assolutamente no. Vabbè, no, pensavo che magari richiedendolo in diretta. No, no, mentre tu parlavi del Padova, io e Stefano ci guardavamo, no, perché non dirlo. Anche sabato sera purtroppo. Aia. Io c'ero. Tu c'eri, c'era preso anche un sacco di freddo. C'era anche qualcuno mandato dal nostro emittente a seguire la Radio Corona, che per i nostri ascoltatori, e ci siamo fermati su un gelido, come l'ha definito, 0-0. Ecco qua. No, comunque anche questo voglio dire, quello che stiamo facendo adesso con l'inno del Calcio Padova, sì. È un esperimento. Cioè, l'abbiamo provata, abbiamo iniziato a registrarla, però chi lo sa, magari ne uscirà una cosa bellissima, oppure certo. Non lo so, però è tutto a sorpresa, diciamo, ecco. Quindi sicuramente quando sarà pronto, se ci vorrete ancora, saremo felici, esatto. Di portarvene una copia, e così ci darete una vostra opinione direttamente. Ma certamente. Bene, allora noi siamo qua, sapete dove siamo, ci avete già incontrati una volta, siete sempre nostri amici, suonate pure quando volete, l'importante è che noi vi apriamo dopo la fine. No, vabbè, allora riprendiamo ascoltando ancora qualcosa dal disco. Sì, facciamo ascoltare sì. Appunto questo brano, questo Miser Lou. Miser Lou, sì. Ha una che... parte di chitarra abbastanza caratteristica, così poi sentiamo anche come se la cava il nostro chitarrista, visto che non può difendersi a chiacchiere, almeno lo sentiamo suonare. Ecco, sì. È un pezzo che molti conosceranno alla prima nota, è un pezzo che faceva parte della colonna sonora di Pulp Fiction. Ci darete la vostra. Bene, allora ce lo ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Radio Sera. Ci siamo ascoltati questa Miser Lou che vede lontanissimo anni luce quella che è la sonorità rockabilly tradizionale statunitense, perché qui ci sono dei fermenti vivi del folk greco, oserei dire, esatto. Quasi un ballo di Zorba o giù di là. Infatti ecco. Ha origini proprio greche questo brano. Prince si dà da fare qua, mi pare. Mi pare che il ragazzo se la sia cavata. Certamente. È stato bravo. È promosso sicuramente. Ecco, bene, allora salutiamo anche Davide Fragapane, il terzo elemento. La prossima volta che venite sarà molto presto, l'abbiamo appena detto, proprio per presentare questi altri brani che parlano del nostro Padova, ecco, con rispetto per i tifosi delle altre compagini ci stanno ascoltando, perché altrimenti dopo spiegano tutto. Qui, ma qui più che tifoseria sì. È il cuore, dai. Quindi è il cuore. Bene, guarda, allora... ti racconterò una cosa, sì. La settimana scorsa siamo sì. stati a suonare a Predazzo, che è in Val di Fiemme. Sì, esatto. E ci ha comprato, pazzesca sta cosa, il CD un tifoso dell'Hellas Verona. Io non ho avuto il coraggio di dirgli però che stiamo preparando l'inno del calcio palla. Sì. Tornerà. Allora tu Stefano gli hai detto l'ascolterai e lui ha detto dopo che ha saputo che eri padovano ha detto lo falò. Quindi, non ha detto con la R, detto semplicemente dai che andiamo in Serie A tutti quanti. Bene, tutti quanti insieme. L'ho detto sicuramente. Un bel Veneto unito in Serie A. Bene. Ok, allora positiva. Si parla di 100 date nel corso del 2011 con Rockabilly Eyes on the World. E 2012 cosa vi riserva positiva? Quello era appunto la diciamo il nomignolo che abbiamo affibbiato al tour dell'anno scorso. Quest'anno con The Big Pepperone appunto abbiamo The Big Pepperone Tour, che ci porta in giro un po' per tutta Italia. Ma la cosa carina che tengo a sottolineare è che con questo tipo di situazione, di formazione, abbiamo il piacere di poter sperimentare qualsiasi tipo di situazione e dimensione a livello di platea o di locale, semplicemente. Quindi dalle grandi feste della birra, ma anche al piccolo bar di paese che ha voglia di fare la festa un po' particolare o di celebrare la ricorrenza, e quindi abbiamo veramente modo di inserirci in qualsiasi tipo di contesto sociale. È una cosa molto bella perché ti dà modo proprio di vivere realtà completamente diverse tra di loro. Magari la sera prima sei in un bar di 10 metri quadrati, la sera dopo in un grande palco, in un grande locale. Questa è una cosa che volevo sottolineare perché è una cosa che a noi dà particolare soddisfazione. Per sapere qualche data vicina o lontana, cosa possiamo dire agli ascoltatori? La memoria ormai è un ricordo lontano. Siamo vecchi. No, però c'è sempre un sito internet, certo, torniamo certo a ricordarlo. Su positivaonline.it c'è la sezione live, lì troverete aggiornati in continuazione tutti i nostri appuntamenti dal vivo. Certo, date sono molto importanti, molto positivo. Positiva, appunto. E non avete crisi voi per quanto dal punto di vista dei locali, perché no, avete avete la caratteristica di fare feste in qualsiasi posto che vi troviate. Devo dire che non abbiamo mai lavorato così tanto come in quest'ultimo anno. Siamo in assoluta controtendenza e spero che la cosa continui. Sì, infatti. Ma forse è proprio semplicemente un riflesso della volontà della gente di trovare, ritagliarsi comunque dei momenti di svago, certo, a prescindere dalla situazione che sta vivendo. Quella è una cosa a cui fortunatamente la gente non è disposta a rinunciare. Parlando, e noi siamo lì. Sì, parlando di concerti, si parla anche di quello che c'è il mercatino post-concerto, ovvero quello che è un'altra forma di introito, perché purtroppo si deve parlare anche del lato economico a un certo punto, che permette poi a voi di investirlo sulle certo vostre altre produzioni artistiche, certo, e quindi si trova il banchetto con il disco. Al momento trovo chi viene a trovarci potrà trovare appunto oltre al Big Pepperone al momento e in futuro anche questo singolo di due brani, ma non solo, perché ci sono varie sorprese discograficamente parlando nel corso di quest'anno, e le nostre t-shirt che comunque stanno andando via molto bene. E gli adesivi. E gli adesivi, giusto? Benissimo, allora abbiamo ricordato, poi naturalmente si troverà anche nei negozi di dischi, e se non si trova subito basta richiederlo. Esattamente, questa è una cosa che noi spingiamo a fare. Comunque, anzi, mi hai fatto venire in mente una cosa molto importante. E prima di poterlo dire sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito ufficiale, ho saputo proprio oggi che è già stato acquistato il nostro primo album su iTunes, che è disponibile proprio da oggi. Ah, benissimo, quindi anche da iTunes, quindi questa forma di scaricare in maniera legale la forma digitale del disco sarà possibile trovare The Big Pepperone da oggi. Benissimo, allora The Big Pepperone per una vostra insalata diversa in tema musicale. Allora, positiva The Big Pepperone, un altro pezzo. Dai, torniamo ancora a vostro piacimento, visto che abbiamo stravolto la scaletta sistemata prima con tanta cura in circa 30 nanosecondi. Adesso io questa sera sono abbastanza monotono. sono fissato con Elvis, voglio farvi ascoltare un altro pezzo suo, sempre degli inizi. Questo si intitola Too Much. Well, I need your loving I'm stunning, don't you leave me broken hearted, cause I love you too much. Well, every time I kiss your sweet lips, I can feel my heart go every bleep. I'm such a fool for all your charm, I like to hear you saying you're the one. Even to the land that doesn't know you've been a star, I should I love you too much. Well, and now you get me started, don't you leave me broken hearted, and I love you too much. Well, I know you get me started, don't you leave me broken hearted, and I love you too much. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Un altro bel pezzo di Elvis Presley interpretato dai Positiva, si intitola Too Much, e sono disponibili di Too Much, che io ricordo, tantissime anche tantissimi filmati su YouTube proprio di questa canzone, anche super vista e super richiesta da tutti i fans di Elvis Presley. Ci sarà un perché Positiva? Ma questa proprio rappresenta, ripeto, il primissimo periodo, quindi forse c'è una questione di affezione a questo momento, no? Particolare di Elvis, e questa sicuramente è uno dei manifesti di questo periodo. Era il periodo in cui ha iniziato la carriera grazie alla spinta di un tutelare, il colonnello Parker, mm-hmm. Il colonnello Parker che fu il suo manager per tutta la vita musicale, di Elvis praticamente. Esattamente. Dall'inizio alla fine. Qualcuno dice, i cattivi dicono che ne ha mangiate tanti, il colonnello Parker si è intascato un sacco, milioni di dollari grazie ad Elvis. Quello è sicuro, però, non penso sia una voce, ma penso sia sicura. L'unica cosa, non so se sia vero, come dicono tanti, che sia stato un elemento fondamentale di quello che poi fu il declino di Elvis. Io credo che le cause fossero state altre, certo, magari in concomitanza anche con, però è stato positivo che il Colonel Parker ha creato il personaggio Elvis, sicuramente, ma non solo perché ha inventato delle cose che per noi oggi sono scontate e normalissime. Abbiamo parlato prima di merchandising, la prima forma in assoluto di merchandising legata alla musica, a un artista musicale, l'ha creata il colonnello per Elvis, certo. Quindi tutto quello che sono t-shirt o dai cestini della merenda agli zaini per la scuola, qualsiasi tipo di prodotto legato all'artista, è stata un'idea che per primo ha avuto il colonnello e l'ha, diciamo, creata su misura su Elvis, quindi anche quella è stata una cosa sicuramente pioneristica. Certo, certo. A proposito di tutti questi gadget che sono ben presenti in quel di Memphis, mm-hmm. nella mm-hmm. sua casa museo, diciamo così, avete già fatto visita? Io ci sono a stato. Questo... Sei stato a Graceland? Sì, sì, sì. Ci sono stato e tra l'altro nel periodo del mio compleanno, nel senso che ho fatto una settimana a cavallo tra il mio compleanno, tra prima e dopo, e quindi ho passato proprio quel compleanno di 3 o 4 anni fa a casa di Elvis. Per me è stata una cosa veramente eccezionale, ho dei fantastici ricordi sia ovviamente del museo, della casa, dell'alone, del personaggio che si respira in quel posto, ma soprattutto anche ho degli ottimi ricordi legati alla città in se stessa e alla popolazione, che devo dire è una cosa davvero eccezionale. Lì si capisce cosa vuol dire lo spirito del sud degli Stati Uniti, che, di cui si sente parlare tanto, ma lì se ne ha proprio il sentore, si capisce di cosa si tratta nei primi secondi in cui si è lì. È una cosa fantastica. È una città Elvis dipendente oppure vive anche di luce propria? Diciamo che Elvis è ancora presente al 100% in ogni angolo della città. Questo è una cosa che si respira, si vive. Sicuramente ci sarà anche una parte di interesse economico legata a questa, però sicuramente c'è anche un grandissimo orgoglio. Un orgoglio della popolazione bianca e anche da parte della popolazione nera, che lì è sicuramente superiore rispetto appunto ai bianchi, e loro comunque hanno in ogni caso questa grandissima forma di rispetto verso il personaggio e la storia di Elvis, a riprova del fatto che veramente è stata una persona che è riuscita a unire tantissime persone al di là della razza e della nazione. Esattamente, poi tutti i centinaia di migliaia di sosia di Elvis che girano per il mondo e quelli Stati Uniti compresi. Ce ne sono sempre qualcuno che resta. proposito, vorrei cogliere l'occasione per salutare il nostro personale Sosia di Elvis, che molto spesso fa produzione ai nostri concerti. A proposito di questo, salutiamo anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che vi ha voluto qua stasera. Esatto, sì. Esatto, un grazie grandissimo ad Alberto, infatti. E stavamo parlando di Elwood poco prima, appunto. E questo è Elwood, è il nostro personal Elvis. Ah, perfetto. Quindi, bene. Un po' di vestito, eh. Un preso di vestito, perfetto. Allora, positiva con questo The Big Peperone qui a Blu Radio Veneto in questa serata. Un altro pezzo dal disco. Allora, ci ascoltiamo questa volta dando spazio a quel gruppo che abbiamo citato prima, ovvero i Depeche Mode, sì. Di cui voi fate anche cover. Sì, noi abbiamo in un'altra. Distantissimo da quello di cui stiamo parlando questa sera, intanto si parla di ed è un tributo ai Depeche Mode, si chiama The Trash Mode, è una cosa che va avanti anche questo da parecchio tempo, dal 98 ormai, e appunto, pur essendo un genere distantissimo da quello da rockabilly che noi amiamo, è una cosa che portiamo avanti con molta soddisfazione da tanti anni, perché comunque l'importante è non limitarsi mai. Certo. E quello che vi facciamo ascoltare dal nostro disco è appunto Personal Jesus, uno dei pezzi più famosi del classico, possiamo dire, Mode, un classico. Ma per noi rappresenta, volevamo farvelo ascoltare perché rappresenta un altro aspetto del lavoro che stiamo portando avanti, ovvero quello di cui si parlava prima, la ripresa di pezzi di brani moderni rivisitati in chiave rockabilly. Blu Radio Sera. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. The Personal Jesus, i Depeche Mode erano a cantarla e a suonarla nel 1989, era stata scritta da Gore, questa canzone davvero bella, quindi non stiamo parlando di musica statunitense, in questo caso stiamo parlando di British Song, quindi una struttura un po' diversa, un genere musicale chiamato anche New Wave in quel caso, mm-hmm. che però vi ha affascinato al pari del rockabilly, che non ha niente a che vedere, però siete riusciti a fondere le due situazioni e io direi a questo punto mandatela ai Depeche Mode questa vostra forma musicale nella nostra infinita umiltà, non ci abbiamo mai pensato. Però il discorso dell'introduzione di Depeche Mode, di Personal Jesus, ha qualcosa del rockabilly, c'è poco da fare. In realtà finché il tuo collega parlava, dimmi. Mi è venuta in mente una cosa, ovvero che proprio prima di registrare quell'album che era Violator, sì, quello famosissimo, Depeche Mode, che conteneva tra l'altro anche Enjoy the Silence, sì, certo. altro super singolo di Depeche, loro venivano proprio da un tour trionfante negli Stati Uniti. Certo. E quindi chiaramente hanno avuto modo di assorbire un po', di respirare quell'aria, di girare la famosa Route 66, ci sono dei video che documentano proprio questo loro momento. E sicuramente il riff di Personal Jesus viene direttamente da quel sì, tipo qualcosa di atmosfera. C'è dentro, c'è poco da fare. La musica è fatta da sette note, certo. da fare. Quindi qualcosina c'è, qualche riferimento, qualche addentellato. Certo. È una cosa positiva. Ma infatti lo stesso Dave Gunn, che è il cantante dei Depeche Mode, in un'intervista disse a suo tempo che quando la gente impazziva per fare una cover ancora una volta di Personal Jesus, che ne saranno state fatte a decine, un sacco, esatto. oltre alla nostra, diceva appunto che non capiva come mai questa gente impazziva così tanto per questo riff, per questo pezzo, quando invece bastava andarsi a ascoltare quelli veri, che potevano essere un John Lee Hooker o un Muddy Waters, e di questo materiale ne trovavano a bizzeffe, no? Però in realtà quando un riff è indovinato. Certo, questo è importante. Per quanto semplice sia. Sì, però sì, un riff determina un grande successo e determina, la gente si ricorda sempre di quel riff, c'è poco da fare. E non deve essere per forza una cosa elaborata. No, assolutamente no. Di solito è proprio il contrario, è molto semplice. Sì. E mentre in sottofondo stiamo omaggiando anche i Depeche Mode con questa Enjoy the Silence. Salutiamo anche i The Trash Mode con l'occasione. Siamo noi. Siete sempre voi. Benissimo. Ripetete il nome un attimo. The Trash Mode. Quindi tipo cestino. È un gioco di parole che sì, magari sì. Mi tolgo lo sfizio di spiegare una volta per tutte, perché tanto pensano al discorso solo spazzatura, ma è un termine. Trash Mode è un termine legato alla programmazione software, ovvero quando vengono realizzati dei videogiochi o dei programmi, il primo abbozzo è il Trash Mode, quindi in una forma così di comunque legata al mondo elettronico o comunque dei computer. Certo, come Trash Mode, dove sarete presenti e quando? C'è qualche data vicina? E lì torniamo sempre al Memorial. No, lì, in questo caso si può andare a vedere il nostro sito, che è thetrashmode.com, e lì troverete tutte le informazioni. Benissimo, quindi non solo di positiva abbiamo parlato, ma di questi Trash Mode. Non è che ci presentate il conto adesso alla fine. No, assolutamente. Noi eravamo più preoccupati noi del vostro conto. Vabbè, sono le 22:20, abbiamo tempo ancora per ascoltare qualche canzone prima di salutarci. Allora, visto che abbiamo a disposizione l'album, poi abbiamo anche spiegato come entrarne in possesso, e naturalmente nella classica maniera legale, mi raccomando, perché pagando la musica si fa che la musica continui, altrimenti si ferma. Vi controlliamo. Accidenti, certo che sì. Allora, sono 14 le tracce che formano il CD di positiva The Big Pepperone, e andiamo ad ascoltare un brano che si intitola Americano. Come mai Americano? Americano è una doppia, in questo caso tripla cover, nel senso che l'originale è il pezzo celeberrimo di Renato Carosone, sì. Che è stato rivisitato dalla Brian Setzer Orchestra, che quindi torniamo a Brian Setzer, cantante e chitarrista degli Stray Cats, e rivisitato ancora una volta da noi. Ah, quindi Si tratta di un esperimento molto curioso. Quindi la cover che copia la cover della cover. Esattamente. Una cosa del genere. Comunque va bene, l'ascoltiamo e cerchiamo di farsi più chiare le idee di quelle che ho io in questo momento. Blu Radio Sera. Hey, are you talking to me? You wanna be Americano? Oh, that's right. Choosing sugar, smoking camels, whiskey and soda. Oh, that's right, but you're never going back. Cruises to go, dress in the center clothes, rolling in the future slow. You better not to breathe, you need to be the dream. Wanna be Americano, Americano, Americano. Wanna buy a Marine, cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man, wanna be American, wanna be American. Radio Sera. La classica musica italiana nel mondo, questo americano con Renato Carosone, uno dei portabandiera più conosciuti di quegli anni, che ha sempre fatto questa musica davvero originale, ma anche aveva una bella capacità di comunicare, e quindi le sue canzoni venivano benissimo. Renato Carosone, un grande, e quindi poi c'è stato anche lo zampino di questo Setzer per la parte che è diventata poi rockabilly della questione. Allora, ci siamo ascoltati questo americano, ma all'interno di The Big Pepperone dei Positiva abbiamo anche altri riferimenti importanti. Mi sarebbe piaciuto ascoltare anche The Sweet Dreams dei Eurythmics, poi ancora Fire di Bruce Springsteen, insomma ce ne sono da ascoltare. Noi chiaramente un CD ve lo regaliamo, poi se avrete voglia di passarlo ogni tanto noi non ci tiriamo indietro, eh. Certo, certo. Okay. E noi assolutamente dobbiamo è nostro sì. compito anche inserire almeno un paio di canzoni del vostro disco, tanto per lasciare spazio anche agli altri artisti. Grazie. Altrimenti vengono un po', come dire, messi troppo da parte. E facciamo ascoltare anche un po' di rockabilly, che non fa mai male. Grazie. Anzi, di cuore. In questa serata abbiamo reimparato a conoscere queste atmosfere così poco proposte nelle radio. Dobbiamo sottolineare una cosa, Flavio, che alla fine di tutti i pezzi di Positiva c'è sempre Stefano che dà la chiusura del pezzo. Come da buona tradizione di rockabilly, la batteria conclude il pezzo. È una cosa decisamente, non è una cosa originale, è una cosa vostra, chiaramente è così. Sì. I 14 pezzi c'è quella caratteristica. Non l'abbiamo ricordato sinora, ma lo facciamo perché non è mai troppo tardi. Alberto Prisco lo ringraziamo perché tramite la sua organizzazione artistica, certo, siamo riusciti ad avere i Positiva qui con noi in questa serata, mentre fuori fa un freddo cane, dentro si è ispirato. Sì, sembra di stare alle Hawaii qua, esatto, no? Quindi molto, molto caldo, un caldo che viene non solamente dalle temperature torride che abbiamo sempre dentro qui, caldo d'estate, caldo d'inverno, caldo sempre, ma anche attraverso la musica e la strumentazione che ci ha regalato queste belle sonorità in questa serata. Allora, volevo sottolineare che siamo ragazzi caldi. Siete ragazzi caldi e soprattutto positivi. Io mi dissocio, come sempre io mi dissocio totalmente. Bene, allora noi ringraziamo i Positiva, quindi ringraziamo Andrea Baccelle che è anche... Alessandro. Alessandro Baccelle, chissà dove ho letto Andrea, Alessandro Baccelle che anche suona il basso. Mi veniva anche da chiederti, e dopo chiudiamo, bisogna avere tanta energia per suonare quel basso grande sempre, quel contrabbasso? Perché ci vuole un bel po' di allenamento, però anche magari non so se la tua compagna o la tua moglie ti fa arrabbiare, ti puoi allenare con lei. bene, ti troverai già caldo, appunto, per suonare. No, bene, poi ancora salutiamo Stefano Jester Borile, batteria e per l'occasione spazzole riunite con una batteria minimalista, abbiamo detto prima, e salutiamo a distanza Davide Prince Fragapane, che è anche la chitarra, questa bella Gretsch stile proprio rock and roll, con le chiavi di violino ben intarsiate nel corpo della chitarra. E vi ringraziamo di essere stati con noi, di averci presentato questo The Big Pepperone. Grazie a voi davvero di cuore, è stato veramente un piacere. Ecco, ricordiamo che questa trasmissione poi sarà inserita all'interno del nostro archivio musicale e nella pagina riservata ai nostri amici Positiva all'interno del sito www.bluradioveneto.it. nel breve ci sarà modo di ascoltare ancora la trasmissione e poi di vedere le simpatiche foto che abbiamo fatto per questa serata mentre i ragazzi suonavano. Allora, ancora grazie, e direi io e Maurizio ce ne andiamo, però vi lasciamo i microfoni aperti per un ultimo pezzo. Ah, ok, ci lasciate qua soli soletti a concludere la serata. Sì. Va bene, a concludere la serata, poi ricordiamo ai nostri ascoltatori che la serata riprenderà in maniera abbastanza vigorosa perché c'è il classico appuntamento hard rock e heavy metal assieme al nostro Renato Ferro, che ho visto arriva sempre con una bella valigetta piena di cose molto dense. Devo da chiedere presentare. Se hai Jester Beast, allora magari non adesso glielo chiediamo, stiamo qui ad ascoltare, eh? Senz'altro, magari la prossima volta. Renato, hai Jester Beast? Li conosce ma non li ha confermato. Che per martedì prossimo un pezzo di questi Jester Beast viene fuori. Ok, allora da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, buona serata a tutti, vi lasciamo assieme ai Positiva, The Big Pepperone, ricordatevelo. My baby love. She's the baby with the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the one that walks around the store. She's the one who gets me more and more and more. I say, beep-bop-a-doodle, she's my baby. Beep-bop-a-doodle, I don't mean a maybe. Beep-bop-a-doodle, she is my baby, love, my baby, love. She's the woman who I got to be. She's the one with the flying feel. She's the one that walks around the store. She's the one who gets me more and more and more. I say, beep-bop-a-doodle, she's my baby. Beep-bop-a-doodle, I don't mean a maybe. Beep-bop-a-doodle, she is my baby, my baby, my baby. My baby love, my baby love, my baby love.